Eccoci qua, buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, hai spostato il microfono, avevi due microfoni, troppa grazia. Sì, in compenso abbiamo un audio in meno, ma oggi insomma, sì, abbiamo meno tempo, quindi va bene così, però... Non abbiamo la copertina, la copertina audio. Veniva dagli Stati Uniti perché comunque, insomma, noi la diamo un po' per finita la vicenda. In realtà il 14 dicembre è il giorno famoso in cui si riuniscono i grandi elettori e fanno questo passaggio formale al congresso, giusto? Sì, a Washington, per fare appunto questa votazione, quindi i famosi 300 e passa electoral votes, cioè, per Biden. Cioè lì inizia l'ufficialità della nuova presidenza. Esatto. Praticamente. E siccome poi c'è un'altra scadenza, questo è un po' meno, un po' più imprevista, che è quella del 5 gennaio, quando si voterà per eleggere i due senatori che la Georgia darà al Senato, e c'è un ballottaggio, ci sono due democratici ovviamente e due repubblicani, una repubblicana molto combattiva che è Kelly Loeffler, sposata con il direttore della borsa di New York, la più ricca senatrice degli Stati Uniti, e dall'altra parte c'è anche un reverendo nero democratico. Questa elezione è molto importante perché deciderà l'equilibrio del Senato. Dovessero vincere i repubblicani, il Senato resterà repubblicano, viceversa passerà ai democratici, che hanno già la Camera dei rappresentanti. Da qui il grande impegno di Donald Trump, e di cui parlano tutti i giornali, perché ha tenuto un comizio domenica in Georgia dicendo che bisogna assolutamente che la Georgia voti la Georgia naturalmente come voto popolare ha votato più democratico ed è la prima volta, perché è uno stato classicamente repubblicano. È tornato a dire che le elezioni sono state rubate, è tornato a chiedere al governatore della Georgia, che è un repubblicano, di convocare una riunione d'emergenza per impedire che si svolga questo voto del collegio elettorale il 14 dicembre. Il governatore, che è un repubblicano, ha detto che ha usato l'equivalente di una parola che è simile a disgustato per queste ennesime provocazioni di Donald Trump, che fanno, tra l'altro, lo dice anche in una logica molto repubblicana, dice: mettere ancora dubbi nel nostro elettorato rischia veramente di far sì che le persone che vorrebbero votare per questi due candidati nostri non vadano a votare, e così veramente finirà che voteranno i democratici. Questa reazione del governatore della Georgia e del suo vice, entrambi repubblicani, è un po' su tutti i giornali. Però sui giornali americani c'è anche, e forse danno più spazio di quello che diamo noi, sì, europei, la vittoria di Maduro a queste elezioni, che a proposito di elezioni truccate, magari truccate no, ma sicuramente con una bassissima partecipazione. Ha votato al 31%, quindi esatto, molto molto poco. E però insomma la vittoria c'è, e quindi questa è sulla prima pagina sia del Wall Street Journal che del New York Times, perché comunque insomma il Venezuela è senz'altro una delle tante crisi che ci siamo dimenticate, non fosse che per la povertà estrema in cui versa la maggior parte della popolazione in questo momento. Ce l'ha fatta dimenticare la pandemia, però è sempre lì. Cosa titolano sul Venezuela? Lì davanti qualche... Sì, il Wall Street Journal ha proprio uno dei tanti murales che ci sono, sì, a Caracas, e il titolo è il governo del Venezuela, ci si aspetta che il governo del Venezuela abbia ancora un tightened grip, cioè ancora una presa più stretta sul risultato delle elezioni, perché qualunque sia l'affluenza il risultato sarà pro Maduro, e questo formalmente gli permetterà, almeno per il momento, di essere più saldamente al potere. Non avevamo la copertina, però abbiamo comunque qualcosa da ascoltare, sì, giusto? Questo è il capo, non della task force sul Covid, ma di quel famoso Operation Warp Speed, che è tutta quella operazione che ha portato al finanziamento di alcune case farmaceutiche e quindi al vaccino di Pfizer, BioNTech, di Moderna e di tutti gli altri in modo così veloce, e che naturalmente si sta occupando della logistica della distribuzione. E il responsabile medico di questo progetto si è detto, e lo sentiremo nell'audio, ha apprezzato le parole di Biden, che dice: il mio primo messaggio il giorno dell'inaugurazione sarà: vi prego americani, anche in assenza di un obbligo, portate la mascherina per 100 giorni. E sentiamo come reagisce. No, I think it's a good idea. It's never too late. It's this pandemic is ravaging the country. We all need to take our precaution, have our masks, wash our hands, keep our distance. D'altro canto, sai, può sembrare, ma a tanti mesi di distanza ancora siamo qui a parlare di mascherine, e purtroppo è successo lo stesso anche qui da noi, no? Con il professor Burioni, che di nuovo è tornato a ribadire che sono poche le cose che dobbiamo fare, e quelle sono, e quelle dobbiamo renderci conto che sono gli unici concreti strumenti in attesa di un vaccino. Assolutamente. Allora Giulia, nel Regno Unito è già aria di no deal, cioè di un Brexit senza accordo. Questo famoso 31 dicembre che arriva e chiamiamola come vogliamo, no deal Brexit, hard Brexit, comunque giugno del 2016, ricordiamocelo, referendum, vincono di misura gli ex tiers, i Brexiteers e i Leavers, ed eccoci qua a distanza di oltre 4 anni e continuano a esserci i nodi di sempre. Il Financial Times titola i colloqui sono a un knife edge, sono proprio lì sulla linea, in inglese usano questa espressione, cioè proprio al coltello, ma insomma sul crinale. Il problema è che si trovano tante scuse, una potrebbe essere la famosa questione della pesca, che però lo sappiamo riguarda certo le persone che sono toccate in maniera diretta. Poi ma termini comunque economici un pezzettino. Esatto, però insomma si cerca comunque di trovare uno scoglio, o che c'è o che si inventa, perché alla fine si teme, così dicono i commentatori di molti giornali, che non sarà neanche per la cattiva volontà delle parti, ma per oggettiva mancanza di tempo, a questo punto sarà una no deal Brexit. Allora, in Francia invece non smette di suscitare dibattito la legge sulla sicurezza. Che cosa c'è? Sì, molti giornali continuano a dare voce alle persone che sono contrarie a questo articolo della nuova legge che impedirà di filmare le violenze della polizia, perché dicono è stato negli ultimi casi l'unico vero strumento per dimostrare, per avere una prova delle violenze della polizia, perché se no è una versione contro l'altra, e quella in generale della polizia come vista come l'autorità vale di più, pesa di più, e perciò continuano le proteste. Sono state molto violente nel weekend a Parigi, ne parla Le Figaro, e questo naturalmente ricorda i Gilets Jaunes, ma soprattutto ricorda che questo era un po' il primo weekend a Parigi, come in tantissime altre capitali del mondo, città del mondo, di shopping prenatalizio, famosa boccata di ossigeno per tutte le attività commerciali messe così a dura prova dalla pandemia, ed è un altro weekend che è andato letteralmente in fumo a Parigi. Direi che ci fermiamo qua per oggi, perché abbiamo insomma un po' meno tempo del solito. Giulia, grazie, ci risentiamo naturalmente domani con te per quanto riguarda la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Noi ci risentiamo per l'aggiornamento alle 14, vi lascio ad Hashtag Autotrasporti. Ciao.